Comincia Happy Smile su CRM Happy Radio. Power Back. Che domenica bestiale, che giornata bestiale possiamo anche dire. Ben ritrovati anche per quest'oggi all'interno di Happy Smile insieme a Dise e Iaco per vivere altre due ore di grande emozione. Due ore di grande musica, naturalmente shakerata come sempre dalle notizie. Il nostro appuntamento anche come sempre si apre con il Power Back, il disco rispolverato dal nostro archivio, perché noi siamo i tipi nostalgici, quelli che ci piace riascoltare la musica che ti provoca certe emozioni, certi ricordi. Beh, in questo caso abbiamo ripescato Fabio Concato con la sua Domenica Bestiale. Prima di iniziare, diciamo alla grande ufficialmente questo appuntamento, è doveroso darvi i numeri per interagire con noi: 335-56-37-251, isaiaco@crmpiradio.it, la nostra pagina di Facebook, poi lo 0921-423-456, quindi tanti modi, tanti itinerari per potersi mettere in contatto con noi, dalla musica vecchia alla musica nuova, ancora tutta targata Italy. Si tratta di Gianna Nannini con il suo nuovo singolo Ogni Tanto. Ogni tanto mi sorprendo, un po' di invento, un po' di dei. Ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede? Fiore di ninfe. Ogni tanto arriva anche qualche notiziola buona, perché pensate, in Spagna potranno ricevere o contestare le tanto odiate multe per mail, e inoltre saranno avvisati anche dalla scadenza del bollo assicurazione o per la revisione della loro automobile, il tutto grazie ad una pagina web che il Ministero dell'Interno ha messo appunto a disposizione. L'iscrizione a questo servizio sarà volontario per i cittadini, mentre per le aziende dovranno aderire obbligatoriamente. Tra l'altro è anche un servizio molto utile a mio dire, perché attraverso la mail, quindi sapete quanto odioso ricordare il pagamento delle multe, oppure magari contestarle, dover andare lì negli uffici, fare le code, le file interminabili. Invece così, praticamente seduta comoda dalla scrivania del tuo studio, digitando appunto il server, praticamente puoi aderire e usufruire naturalmente di questi servizi. Ogni tanto qualche cosa buona esce fuori. Adesso arriva The Notorious B.I.G., Nasty Girl. Left the club tipsy, say no more, except how I'm getting home tomorrow. Caesar drop you off when he see his D.O. Back of my mind, I hope she's fine. Man, she spilled the drink on my cream while lows. Reached the gate, hungry, just ate. Riffin', she got to be to work by 8. This must mean she ain't trying to wait. Conversate, sex on the first date. I state, you know what you do to me. She starts off, well, I don't usually. Then I whipped it out, rubber, no doubt. Step out, show me what you all about. Is in your mouth, open up your blouse, pull your G-string down south. Do that back out in the parking lot, buy a Cherokee and a green drop top, and I don't stop until I out. Jeans, skirt, butt naked, it all works. And I know I let a nasty girl, know I love my little nasty girl, I love my little nasty girl. I need you to dance, I need you to strip, I need you to shake your little ass and hips. Let's go. I need you to grind like you're working for tips, and give me what I need while we listen to Prince. Cause miss, you ain't seen the world yet. Rock La Pearl, yet, rock them pearl sets, flew in a pearl jet. My style make a low profile girl smile, blow a chick back like I blow through a trial. And now you and me can drink some Hennessy, then we get it on. Mad women wanting to watch on combs, yeah. Sipping on Patron, speed and be leaning, got a fiend. Don't stop. And when I get to you, throw it right back, and tell me, did he, yeah, I like it like that. Lift your shirt, you know how I flirt. Heels and skirts, let's take it off. Now let's work. Let's work. What? Got the keys from daddy. No man in liquor, no stress. Meet us upstairs in your best. Yes. Dress to impress. Spark this bitch's interest. Chasing on the beat so sweet. Ladies know you feel me, breaking titties from B.I.G. Okay, mom, what's your preference? Nice and slow, all fast and reckless. Yes. Who you heard, girl, bite your necklace. Let me hear you what it from the loo was blessed with. Hey! I make you sprain the leak when I'm done. Flip the mattress, change the sheets. I'm like the radical one, a little more than your mechanical one. To your throne. Either way, my mama make it do what it do. Girl, I'm about to make you. Guaranteed when you're picking with me. Cause I go on and on. Allora, avete capito gli amici spagnoli, no? Loro comodamente seduti si sbrigano le loro faccenduole e noi invece ancora dobbiamo ricorrere alle file degli uffici. Lanciamo un appello per le istituzioni che ci stanno ascoltando, magari fanno qualche piccolo miracolo e anche noi seduti comodamente da casa possiamo interagire e sbrigarci un attimino tutto quello che c'è da sbrigare degli uffici da casa nostra. Vediamo un po' se esce fuori qualcosa. Adesso invece noi ci si ferma per una piccola pausa, voi fermi lì perché dopo si ritorna ancora insieme a Dizzy Yaco, ma soprattutto insieme alla grande musica di Happy Smile su CRM Happy Radio. CRM Happy Smile su CRM Happy Radio con Isabella Ilardo. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin juice. Laying underneath the palm trees. Yeah. Turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, west coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay. Just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. California Girl, lei è Katy Perry col featuring di Snoop Dogg qui all'interno di Happy Smile anche per quest'oggi insieme, tanta carne al fuoco. Cosa state facendo al di là delle radio, al di là degli altoparlanti? Fateci un po' sapere attraverso il 335-5637-251. Invece noi vi facciamo sapere che per tutti quelli che sono stati al fantastico concerto due tappe il 20 dicembre a Roma e il 22 dicembre a Milano di Alessandra Amoroso, a quanto pare è prevista anche un'inedita parentesi acustica, quindi il mondo in un secondo tour debutterà tutto il 12 marzo a Parma per una grande altra straordinaria avventura che vedrà Alessandra impegnata nei primi mesi naturalmente del 2011. Tornerò meno fragile, resterò alla finestra mentre un altro giorno passa in fretta. Resta lì pure in silenzio, giudica. Sparirò come pioggia nella sabbia. Brillerò tra le stelle, chiudi gli occhi e riuscirò a toccarmi. Dicono che non si può rinascere. Facile dirlo per chi non ha entrato la tua pelle. Dormi tranquillo, stai lontano dai miei spalli. Intanto che riposi io continuo a chiedermi perché urlo e poi tu non mi senti. E dimmi se a volte poi mi cerchi tra soltanto pioggia o sono lacrime, allungo le mie mani ma tu sei distante. Chasing the very last train when it's too it's too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. Smile. And a happy new year. I won't be believing. il blues, quello vero, quello puro, quello di Pino Daniele, la grande voce, un grande artista di cui io ricordo veramente un concerto straordinario visto a Campo Felice, veramente una cosa da ripetere veramente altre 100, altre 1000 volte. Allora, a quanto pare sono stati svelati i titoli dei brani del nuovo disco del REM, Colps in Now, il 15° album della band americana atteso per la prossima primavera, pensate, conterrà le seguenti canzoni. Che chicca che vi stiamo dando: Discover, All the Best, Harbin, All My Heart, Hit Hippin' It Today, Every Day Is Your To Win, Alligator, Aviator, Outpilot, Admitter. Mamma mia che titoli lungoni che hanno. Walk It Back ed ancora Mine Smell Like Honey, Dead Somehine Is You Me, Marlon Brando e Marlon Brando and High, e infine l'ultimo brano Blue. Quindi per questa nuova produzione Michael Stipe e soci hanno messo un po' insieme delle grandi collaborazioni eccellenti con colleghi del calibro, pensate, di Eddie Vedder, Pat Smith, Peaches, e poi ce ne sono veramente tantissimi altri. Voi invece siete all'interno di Happy Smile, l'appuntamento pomeridiano in due fasi. Il primo è lunedì dalle 15 alle 17, il secondo appuntamento che state ascoltando mercoledì sempre dalle 15 alle 17. E voglio naturalmente ricordarvi l'appuntamento dell'hip hop, del soul e dell'R&B di CRM Happy Radio, protagonisti ancora una volta Iseiaco all'interno di Freestyle ogni venerdì dalle 19 alle 21, e poi naturalmente ci sarà anche una replica nel fine settimana, nel weekend. Quindi se vi perdete qualche appuntamento non strappatevi i capelli, perché ci saremmo anche nel fine settimana. Adesso arriva lei, la Peperina. Messaggio promozionale.

non le abbandoni più. E da qui la voce è quella di Neck all'interno di Happy Smile insieme a Dize Iaco, anche per quest'oggi, anche per questo mercoledì insieme. Abbiamo superato già la prima ora insieme, quindi ci addentriamo nel secondo tempo da assaporare con tanta buona musica. Ancora una volta voglio ricordarvi il 335-5637-251, isaiaco@crmpiradio.it, la nostra pagina di Facebook e naturalmente lo 0921-423-456. Abbiamo ripescato Rihanna con Umbrella. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies it better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Di Rihanna, la star torna in tour in Europa nel 2011 e ha annunciato le date naturalmente del suo Loot Tour nel vecchio continente, perché purtroppo, ahimè, per tutte le fan di Rihanna, lei dopo una goduria di vacanza nelle Barbados, quindi nella sua terra, annuncia questo tour che però purtroppo a quanto pare non sono previste tappe in Italia. I primi due concerti si terranno a Belfast il 30 settembre e poi naturalmente il secondo il 1 ottobre. Dai, magari ci ripensa, qualche ripensamento, qualche concentramento in più e ci annuncerà queste date tutte italiane. Beh, speriamo, perché è un artista che fa della bella musica e sarebbe anche bello vederla nel live qui in Italia. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running. happening for Cuba. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running for Cuba. Jam down, no have no war, just a killing spree. There's confusion near and far, nobody no free. Terrorism, red alert, Iraq is ablaze. What's going on in the earth? I am so amazed. What is happening the world over? Everyone is panicking, running, running, running for that was prophesied. Every country, every land seeking to be nuclearized. I wonder what is happening the world over. Everyone is panicking, running for cover. I wonder what is happening, if you know, the world over. Everyone is panicking, running for cover. Well, strange times. If you know, you can tell I. Where are we going? What? Stai ascoltando Happy Smile. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise. Clown, you gotta make a mistake. Got to make a mistake. penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai, decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Può darsi già mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che per ogni uomo c'è un'altra come te. E al posto mio, quindi, tu troverai qualcun altro uguale. No, non credo io. Ma questa volta abbassi gli occhi e dici: noi resteremo sempre buoni amici. Maledetti, io un amico lo perdono, mentre a te ti amo. Può sembrarti anche banale, ma è un istinto naturale. E c'è una cosa che io non ti ho detto mai: i miei problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo al mondo per sentirmi più sicuro. E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda, a volte un uomo va anche perdonato. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Che fai? Cerchi una scusa, se vuoi andare vai. Tanto di me non ti devi preoccupare, me la saprò cavare. Stasera scriverò una canzone per soffocare dentro un'esplosione, senza pensare troppo alle parole. Parlerò di quel sorriso di chi ha già deciso, quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. E c'è una cosa che io non ti ho detto, problemi senza te si chiamano guai. Ed è per questo. Gianluca Grignani col brano, diciamo uno dei due brani che l'ha portato veramente al successo, La mia storia fra le dita. Chissà quanti ricordi, quanti nostalgici in questo istante all'ascolto, magari stanno anche piangendo, perché sapete, con una canzone ci possono essere tanti ricordi che ti fa ricordare sia cose belle che naturalmente anche cose brutte. A volte scende anche giù una lacrimuccia, ma noi non vogliamo farvi piangere, vogliamo semplicemente dirvi che parte il nuovo tour teatrale per Gianluca Grignani. Dal prossimo febbraio tornerà ad esibirsi nei principali teatri dello Stivale con la seconda tranche del suo romantico rock show tour. Il nuovo spettacolo si preannuncia emozionante e completo. Durante lo show, oltre alla musica, troveranno spazio anche suggestivi balletti coreografici per l'occasione. Gianluca infatti sarà eccezionalmente accompagnato da tre ballerine che attraverso la danza trasformeranno naturalmente la sua musica da suono in movimento. Il tour inizierà da una data zero, in programma il 14 febbraio 2011 presso l'Auditorium San Domenico di Foligno. Quindi non perdete quest'altro appuntamento quando dovete perdere l'ascolto di Happy Smile insieme a DJ Aco. I hope there's a golden age. I pray for my sanity. Where we don't have to answer to anyone about anything. This is not like the brochure. Flying cars and sex machines. We're all so compliant cause Smile. And a happy new year. know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro. Alejandro, Alejandro, la voce di Lady Gaga all'interno di Happy Smile insieme a Dize Iaco, la buona musica. E ancora una volta vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17 e poi naturalmente il venerdì, visto che ci siamo, a ricordare 19:21 l'hip hop, il soul, l'R&B con tutte le notizie, tutte le anticipazioni, le chicche del mondo hip hop, soul ed R&B naturalmente all'interno di Freestyle. Smile. A pochi giorni, perché è nata il 26 novembre, quindi saranno passati su per giù così 12 o 13 giorni dalla nascita della figlia di Gianna Nannini, Penelope, lancia un nuovo singolo che oramai da qualche giorno si sente in radio, e non solo, perché annuncia anche le date del suo nuovo tour. Il brano si intitola Ogni Tanto, la canzone praticamente precede l'attesissimo nuovo album della rockette senese Io e Te, in uscita praticamente in tutta Europa l'11 gennaio 2011. Il ritmo è molto travolgente, melodie prodotte da Gianna insieme a Will Malone, suo storico collaboratore e coproduttore praticamente dell'intero album. Quindi per tutti i fan, finalmente, pazientare ancora un altro attimino, però voglio dire, ormai il grosso è stato fatto. La canzone è supportata da un video realizzato da Cosimo Halemà, ispirato all'atmosfera di Monet e dal sapore cinematografico, e girato in bianco e nero. Il video alterna scene legate al tema dell'amore, realizzate tra Londra, Roma e altre città italiane, e immagini di Gianna che sembra uscire appunto da un quadro dell'impressionista francese. L'uscita del nuovo disco sarà seguita da un tour che precede 15 tappe nelle principali piazze italiane già dalla primavera, che in estate approderà poi anche all'estero. I biglietti in vendita oramai dal 10 dicembre, quindi se volete dettagli più approfonditi www.livenation.it. Io adesso, visto che ci siamo con questa notizia, vi do anche qualche tappa. Il 9 aprile, quindi apertura di questo grande tour di Gianna Nannini ad Assago al Mediolanum Forum, per seguire poi il 3 maggio a Roma, 7 maggio Reggio Calabria, 9 maggio a Cirreale, 12 Eboli, 14 maggio a Caserta, ancora il 16 maggio Perugia, 18 maggio Castelvecchio di Reno, ed ancora il 20 maggio a Verona, naturalmente all'Arena, 24 maggio a Villorba, 25 maggio Bolzano, 26 maggio Firenze, 31 maggio Pesaro, 2 giugno Genova, per poi concludere questo grande tour il 4 giugno a Torino al Pala Olimpico. Quindi non perdete queste date, poi non perdete gli appuntamenti di Gianna Nannini, perché lei è un'artista che fa veramente della grande musica. A proposito di Gianna Nannini, ma visto che ne abbiamo parlato, approfondiamo il tutto e ci ascoltiamo anche questo nuovo singolo, che è molto dolce, molto soave, una bella voce lei, vero? Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai, ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. No, lasciare con te la terra. Messaggio promozionale. Ritorna nuovamente il nostro amico, quello che ci sponsorizza interamente Happy Smile. Si tratta di www.inota.it. Chatta, gioca, condividi e sfida i tuoi amici sul nuovo portale del business www.inota.it. INOTA.it. Su inota.it, registrazione gratuita per la tua azienda, indicizzazione sui maggiori motori di ricerca. www.inota.it è il nuovo portale per dare visibilità alla tua attività commerciale. E non solo, perché su inota.it, INOTA.it, è anche il social network con tutto quello che puoi volere a tua disposizione. Tutto italiano, con le sfide che ti intratterranno 12 mesi su 12, alle quali non solo puoi partecipare, ma ricevere anche fantastici gadget personalizzati. Inota.it. INOTA.it. Condividi foto, video, immagini, crei i tuoi gruppi, partecipi agli eventi. Tutto questo, ricordate, su www.inota.it. INOTA.it. Chat in tempo reale, giochi multiplayer, videochiamata e tantissimo altro. Il tutto lo potete trovare all'interno di www.inota.it. Ricordo ancora, INOTA.it. Inota.it, ricordate, è il portale del business. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa e dopo si ritorna ancora con la grande musica all'interno di Happy Smile, insieme a Disei Aku. A dopo! Happy Smile. Let's go. Io dico quello che voglio, dico quello che voglio. Io dico quello che mi passa dentro questa testa. I'm so glad I'm with you, boy. ascolto naturalmente il Rhythm and Blues, quello di Pino Daniele con il suo ultimo singolo Boogie Boogie Man, qui all'interno di Happy Smile, ancora insieme ad Isa e Iaco sino alle 17. Ancora una volta voglio ricordarvi il 335 56 37 251, isaiacochiocciolacrmviradio.it, naturalmente la pagina di Facebook è lo 0921 423 456. Dal successo del singolo Mondo, premiato da iTunes come migliore dell'anno, ad attore ne Il cuore grande delle ragazze, e non con un regista qualunque, Pupi Avati, e non con un'attrice qualunque, pensate, Micaela Ramazzotti. Si parla di Cesare Cremonini, che è stato scelto da Pupi Avati. Lui racconta innanzitutto per l'accento bolognese, proprio come piace a lui. Questo non è proprio un debutto, diciamo, per Cesare, perché il cantautore, al momento che ha recitato come protagonista al fianco di Martina Stella, ricorderete, nel 2002 in Un amore perfetto. Poi Pupi Avati, tra l'altro, confessa che la storia che del cuore grande delle ragazze, che tra l'altro comincerà a girare a febbraio, ispirata a quella dei sue nonne, Carlino, un gran donnaiolo che non voleva lavorare, pensava solamente alle donne, alla caccia e a bere, e a Francesca, una bella ragazza di buona famiglia che si innamora naturalmente di Carlino. Come per Avati, sarà una commedia divertente, un po' surreale, originale nella storia, ma anche perfettamente in sintonia con il mio cinema, lui racconta. Il matrimonio contrastato sarà ricco di colpi di scena, con l'opposizione della famiglia di lei, che fin sull'altare spererà in un destino diverso per la prima figlia primogenita, con in dote appunto proprietà terriere, e lo sposo figlio di un mezzadro, quindi diciamo che i genitori non sono poi del tutto contenti. Il resto del cast è in via di formazione, ma Pupi Avati anticipa che il padre di lui sarà Andrea Roncato, e che sarà un ruolo ci sarà un ruolo anche per Gianni Cavina, e che le musiche saranno affidate a un grande cantautore di casa nostra, nonché Lucio Dalla. Quindi tutte le premesse ci sono per far uscire fuori un buon film. Speriamo che Cesare Cremonini anche questa volta ce la metta tutta ed esploda in questo settore. Ma noi lo preferiamo, diciamo la verità, di più nel mondo della musica. A proposito di Mondo, noi ce lo ascoltiamo. Questo è il singolo che vede protagonista anche il featuring di Lorenzo Cherubini. Ancora una buona serata all'interno di Happy Smile insieme a Isaiaco, e un saluto agli amici in replica. Che mi piace, si chiama Mondo. Ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno. Più la guardo, più la canto, più la incontro. Più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama Mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio, ma questo è il posto che mi piace, si chiama Mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia. Si chiama Mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno, ma questo è il posto che mi piace, si chiama Mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia. Oh, misericordia. Amiamo l'inizio. ad aspettare. Sorge e poi tramonta come un delfino dal mare. Vola nella sua orbita leggero e regolare. Distribuisce sogni e ritmo buono da danzare. Mondo cane, mondo pane, mondo da abitare. Mondo che ci salva, mondo casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto scuro. Questo è il posto che mi piace al di qua e al di là del muro. Nascosti dalla nebbia, oh misericordia, amiamo l'Inghilterra, nascosti dalla nebbia. Cesare Cremanini, Cremanini, diciamo che stavo pensando al cioccolatino e mi sono mangiato con la crema di cioccolato tutta all'interno, quindi alla fine mi è rimasta Cremanini. E allora dicevamo, Cesare Cremonini insieme a Giovanotti, insieme a Diseiaco su CRM P-Radio, a noi ci piace la bella musica, adesso abbiamo scelto un pezzo dove dobbiamo salutare Annalisa, Enrico e Giovanni e fare gli auguri ad Alessandra. Mi raccomando, questa sera divertitevi per questi 18 anni, ma fatelo con prudenza perché ragazzi, venerdì vi voglio all'interno di Freestyle, all'ascolto della grande musica hip hop, soul ed R&B. Perché sta dicendo questo? Giustamente vi chiederete, perché so che questi ragazzi amano la musica hip hop e quindi naturalmente li aspetto con un messaggio dove vi dite che vi siete divertiti ma in modo intelligente. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Stai ascoltando At Mile. Thank you. Empire of the Sun. Il microfono praticamente mi stava scoppiando perché era troppo alto. Praticamente ho perso l'udito quest'oggi io. Allora, Walking on a Dream. E anche per oggi, ahimè, per questo non abbiamo parlato, vi abbiamo fatto ascoltare la musica, perché quando arriva il momento della conclusione, il momento dei saluti, per noi è una cosa tristissima, quindi preferiamo star zitti, farvi ascoltare ancora della buona musica e poi naturalmente dopo il dolce darvi l'amaro. E allora anche per oggi si conclude il nostro appuntamento, 2 ore insieme a Diseiaco, speriamo che sono passate in modo piacevole, però tutto sommato dai, ce l'abbiamo messa tutta, bella musica abbiamo ascoltato, notizie interessanti vi abbiamo dato e non abbiamo sparato cavolate, quindi alla fine. Allora Iseiaco vi aspettano naturalmente lunedì per quanto riguarda Happy Smile, sempre dalle 15 alle 17. Invece l'appuntamento con Iseiaco è rinnovato a venerdì 19-21, hip hop soul ed R&B all'interno di Freestyle. Mi raccomando, restate sempre all'ascolto di CRM Happy Radio, perché la radio che vi fa ascoltare la grande musica. I'm in rare form, and if you really know me, you know it's not the norm, cause I'm doing things that I normally won't do. The old me's gone, I feel brand new, and if you don't like it, fuck you. The music's on and I'm missing. I'm lonely on the corner just missing. I'm taking shots and I'm feeling fine. I'm kissing on the boys and the girls. Someone call the doctor cause I lost my mind. Cause I'm doing things that I normally won't do. The old me's gone, I feel brand new. And if you don't like it, fuck you. Let's go.